Friuli nel mondo, 102esima trasmissione dedicata agli emigrati. Passione di emigrante. Vogliamo oggi dedicarvi, cari amici in ascolto, alcune significative composizioni di validissimi scrittori nostrani, che in esse esprimono con tanta profondità di sentimento, con tanta umanità e con tanta proprietà di linguaggio, la struggente nostalgia del focolare e la passione che pervadono quanti hanno lasciato per lidi lontani la terra che li ha visti nascere. E questa è una piccola antologia del sentimento friulano, scelta dal vasto repertorio della letteratura di casa nostra. Ascoltate. Panarie di Enrica Cragnolini. Agliere une volte, pe vecchie panarie furlane, il flor de farine nostrane, il flor de la lenghe furlane, pai chiams dal friù. Un poche di musiche nestre, pe fieste dal cur, peligrie, e ieri in viloti stan bieli, nostinga la salis morì. Dall'anime nestre, da laghe, da tiere, desmonson nasudis, profuman di flors e di fen, creaturi santighi segnovis, che disin la vita e l'amor, che disin dolore e speranze, che scherzin, che ridin, che giantin, non stinga la salis morì, non stinga morì a poco, o furlan, non stinga butasi in tal stanche a livele, non stinga disfal fogolar, brusin un biel cioc, la flamme è tal scur, non sconti anchimò l'antiche liende, non smette anchimò la speranza e tal cur, che quest mond torni bon. Il Paese di Lelio Chianton. Buonasera, Paese. O soi tornat par vie co ti cognos. Quan co rispiri, o sin che tu rispiris anche tu. Tu aschiasis che an sin tu della me vos. Io o sin ti chiars di fen. O sin tu un frut cal traiaghe de pompe, tum bearz. Buonasera, ti dis. E la tostrade mi sgorle so dai pis par saludami. Io ore smurì pais, se tu tu mueris. Donde de pompe l'acqua i trate laghe di frut, coduti il mont agli eregnò. Ma dopo, o foi dal mont co ti lasai, e o vai, cumò, cosoi dome un vanzun. Tu sei sfurlan pais, e alle furlan il mio dolor. Di class e di miserie, a son gli schiasi stor dal campanili. E che schiampanis là non sunin mai par cui calspere. Il soreli alzem come Crist sulla cros quan calva a mont. Murais des braidis vieris di rocadis, a stangadì che mur cusì la patrie, a plan tal sflamia di poche luz. Quan co rispiri, o sai che non si viv cence morì, ma se tu mueris tu, parce si vivia. Non lo sai, e o tas. Ora es un cur plui gran par fati vivi, ma o soi un puar sotan e nol val nuie il cur co hai, o stoi denan di te e tu mi mueris. La fontana è gote, si sinta rompi stex e un frut calvai, coronis di rosari, qualchi stele. La sere e Gesù turne, une preiere mi nascome une lagrime sui labris. Buine sere, signor, o soi furlan. Radis di Leonardo Zania. Veso mai io dut il vin tal bosc, un vin da sleva pezz, e i pezz colà, con che sradis come braz, come mans, che si tegni in tacera e non volin molà. Veso io dut che chiera a bars, che si distacca, e che sradis blanchias e agosas che si crevi in tatiera. E veso io dut un om cal partis, cal va, la sovalis parchiera, e un canai paman e la femmina in pisca luciala. Veso io duti siei voi, quant cacialin a tor, la sosmans, i siei braz, quant calascin che femmina, lo veso io dut. Stagionai, di Leonardo Zanier. La sala famea, la chiesa, il bearch, l'ostaria, gli amis, las pedradas, un cil da sisiles, gli odors di una vita, sprenzita navalis, i vestiti plens di bosco, i riquart e las fotografias, un toc di formati, il livello, un salam, una chiaccia, dos coculas e una lagrima ingosada. Buscia la femmina, i frutti ridin, plens di paura di metisi a vai, e polà con corriera se trenos, lontan, du la che laga, a un altri savore, no san fa la polenta, e il vin non sa da nuia, e la inta appresa. Là, pensanta novembre, alla vacia caitocia, al pecol rodda l'olia, dormint una baracca, con int carancusa, dopo venea a tavira, il riguardo di noz, plenas di fuoco, e i dispiez dal canai, tas moschetas. Preiera di Leonardo Zanier. Parce a mi, signor, ogni an a mi, signor, che sta cros e che vuoi, sora sera, resta tantim, besola, in che stiet gran calcrice. Mi spuei al scur, signor, di paura di odi, e non mi tocchi la chiar, signor, di paura di vai, di vosà. E hai cambiati l'insui, signor, avevin il suo odor, il nesti odor, io hai metus nes, di chei dal coredo, ma il mio quart no, signor, il mio cor no, signor, non può scambiaiu, signor, mi scoltaiso, signor, mi scoltaiso, signor. Buina notte, om, pensimi, sta ben, scriv, ven. Glesiutis di campagne di Giuseppe Marchetti. Grisis, cidinis, nudis, fur di man, o sotto un pol o d'ogni un cocolar, glesiutis, cence muini o ciampanar, o si sveais, ne volte sole adan. Sin rusiniste ploe la campanele, l'arbe salvadie sulla puarte nas, al piule un passarin enfri dai clas e un rai sul balconut al fas la tele. Ma quanche la campagne eduar in pi sov listelis, un svol di pellegrin s'alliemple il prat intor di cent lumins, e duce ian un campanelli gris. Allora sull'altar torda l'incone che gli agnunuz di len planchin si svein e saltin fur pescisis e riquein un braz di flor e u puartin e madone. Mari, di Giovanni Lorenzoni. Dis un disagno. A cavalò de scove o eri il caporion de baronie? Paure di nessun, rispied di nie, an fasevi ogni tanto ne di gnove. Se o potevi brincati pal cudin e fatti ciulà, erano ne gionde. Non mi tocchiava il cur, picciule bionde, dopo che il tovai cidin cidin. Ma un edì, co tornavi ad asi, mulinando qualche altre metristerie, ve, tu sei svoltate serie serie, col deduzzo la voce, a fa cotasi. Sta bon, che duar! E vi il strenzin tal sen, come ne vere mari la pipine, tu mi astirà d'ogni di te, cidine. Ed in che dì, forsi, ti hai volut bene. Passi gli ains, si cresse, si strussie, cence mai pas, e infin la maravè, di chiatasi a sei paris di famè, plens di speranze, plens di poesie. O tornavi di vore sul misdì, e tu sei svignude sulla quarte. E ti ei voi, sarai muart, tu saras muarte, ma la luz di chei voi non può morì. Tu mi has ditto ne peraule, tu ne orele, e po' di gionde, tu mi sei scolate tra i brazzi. Con riverenze, o ti hai bussate, lusive sul mio cì la prime stele. Qualche mese dopo, col frututto al grin, tu mi parevi come una madone. Vares volut poiati une corone sul biel chiaf, e adorati cence fin. Corini ains, si pene si ciavarie, partira su con sest la nidiade. Qualchi rue sul giarneli, une passate di blanc sul chiaf no contin, ce ti parie. La fontana de vite e butte fuar, la chiase non è mai senza speranze, e ven su intor ne gnove fiolanze, i fis dai fis, pal nestri bon confuar. E cotivio a fai la ninenane ai nevot, mi ricordi che frutine cul deduzzo la bocche, e la pipine tal braz, in che zornate tant lontane. Mari in che volte, paristin dal cur, mari vere pitart detto canae, mari dai tiei nevot, finte vecchiae, mari, c'è in quarti e dopo, se si mur. Parce morì, paese, di Domenico Zanier. Il cret al si colore di passion, e cul soreli batti intor la vite, ma il mio paese, temont, cul abbandon, al viot flurì pai murs la margarite. Noi è tal tor di muscli une ciampane che suni e clami, non l'odore il fum sozzere de polente. A tramontane non rid la poeme col chialdir dai siun. Ogni paese di monte pradarie disod dal bosco besol e bandonat. La glesiute blanche che s'impie in talamont e await il so sagrat. O cirune vilote cul riquart, un vel di spose i viei di chiase me, e mi rispuin cidine l'atto muart. Tu non tu vivis plui, io o viv di te. Ogni pais di mont, ogni pais, parce morì tu amor, tu paradis. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pelizzari. Dizione di Ottavio Valerio.